Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. La mail unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, in cui, lo sapete, parlo 9 volte su 10 di criminalità organizzata. In questo momento sto mettendo sotto i riflettori, con una serie di lunghe puntate, la relazione della Direzione Nazionale Antimafia sulle penetrazioni delle mafie, in particolar modo nel Nord Italia. Allora, ieri abbiamo affrontato un bellissimo caso con Jacopinelli, che è un imprenditore di Licata, quindi ci troviamo in Sicilia, che è a capo di un'impresa florovivaistica. Ha avuto il coraggio di denunciare chi lo vessava e per questo poi ha avuto anche una serie di problemi che ora però si sono risolti, vale a dire il Ministero dell'Interno ha stanziato 240.000 euro dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, ma questi soldi stanno per arrivare, ma ora ne sapremo di più. Ieri Jacopinelli in particolar modo ringraziava la Procura della Repubblica di Agrigento, le forze dell'ordine di quella provincia di Licata e di Agrigento e la Compagnia dei Carabinieri di Licata, che è impegnata, viva dire, una serie di lezioni sulla legalità sul territorio. Tra le persone che ringraziava c'era anche il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, una persona che noi abbiamo avuto già nostro ospite diverse volte, una persona che vi posso testimoniare davvero straordinaria nel suo impegno come uomo dello Stato, ed è il prefetto Giosuè Marino, che noi abbiamo collegato con noi. Buongiorno prefetto. Buongiorno. Allora, signor prefetto, ieri Jacopinelli ci diceva lo Stato ha stanziato questi soldi, ora chissà quanto tempo passerà prima che arrivino direttamente sul mio conto corrente. Allora, sostituiamo Jacopinelli con Rossi, Bianchi, non ha interesse il cognome, ma quanto tempo passerà ora prima che arrivino questi soldi? Ma un tempo assai breve, perché l'emissione del provvedimento concessorio è semplicemente subordinata all'acquisizione che il signor Jacopinelli o il signor X in generale deve farci avere dei piani di utilizzo e di restituzione delle somme che sono concesse. Quindi non appena Jacopinelli, che sarà informato di ciò, se non è stato già informato, ci fa arrivare questi documenti, procediamo con immediatezza. Ciò che si denuncia spessissimo, l'abbiamo sentito anche ieri da Jacopinelli, è il rapporto quantomeno difficile con le banche, alcune delle quali dribblerebbero, io uso il condizionale perché non abbiamo avuto poi interlocutrici le banche, quindi non posso ovviamente dirlo con certezza senza aver avuto con loro il confronto, comunque renderebbero molto difficile le linee di finanziamento a chi è protestato ma contemporaneamente ha fatto domanda di accesso al fondo. Allora, queste banche come si comportano, Marino? Veda, quello che sottolinea Jacopinelli è qualcosa che ovviamente abbiamo constatato anche noi, e quindi di conseguenza abbiamo attivato, perché evidentemente io lavoro insieme all'onorevole Mantovani, il sottosegretario, certo, che segue questo particolare settore, e abbiamo voluto costituire a Roma un gruppo di lavoro in cui sono presenti ABI, Banca d'Italia, associazioni antiusura, fondazioni e confidi, che ha lo scopo precipuo di rendere quanto più fluido possibile il rapporto tra confidi e banche. Lei sa che i confidi hanno una funzione molto importante, vitale, certo, esatto, fondamentale, e superare quelle situazioni patologiche di difficoltà che lei poc'anzi rappresentava, affinché l'imprenditore che sia in difficoltà possa avere un sostegno adeguato, e soprattutto affinché chi imprenditore abbia denunciato estorsione o usura per il sol fatto di avere denunciato non venga penalizzato. Ecco, infatti su questo stiamo lavorando particolarmente e abbiamo fatto delle riunioni costantemente qui a Roma, ma soprattutto le abbiamo portate sul territorio, a Napoli, a Caserta, a Palermo, chiamando anche i responsabili dei vari istituti bancari, oltre ovviamente all'ABI e alla Banca d'Italia, proprio perché attraverso un confronto su questi temi si riesca a trovare una soluzione operativa che consenta di eliminare queste situazioni di difficoltà. Certo. Ecco, vorrei fare un'altra domanda invece. L'iter, diciamo così, dal momento della denuncia e del contatto con i vostri uffici, quindi prefetture, poi su per gli rami fino al commissariato, a volte è un po' lunga e complessa. Ecco, ci spieghi il perché è lunga e complessa, perché qualcuno può anche pensare ma è lunga e complessa perché è lo Stato che... Probabilmente ci sono dei momenti anche molto delicati nelle vostre indagini, no? Non v'è dubbio. Poi innanzitutto occorre considerare che una volta presentata l'istanza di mutuo da chi sia vittima, si dichiari vittima di usura e se risulti parte offesa in un procedimento penale, il mutuo, stabilisce la legge, non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento in corso, no? E tuttavia prima che ciò avvenga è consentita la possibilità di una anticipazione del 50% dell'importo globale del mutuo, a condizione che il pubblico ministero esprima un parere favorevole. Questo ovviamente comporta che ci siano dei tempi di azione estremamente collegati a questi adempimenti che non possono essere assolutamente trascurati, perché è un obbligo che impone la legge. Altra questione è il problema della quantificazione dei danni, perché mentre per l'estorsione la quantificazione risulta abbastanza agevole, abbastanza immediata, già che il danno per il danno emergente, quello che si suol chiamare danno emergente, cioè il danno alle cose subito dall'estorto, è quantificabile in tempi assai rapidi. Per quanto riguarda le vicende legate all'usura, si tratta di verificare documentazioni complesse e talvolta anche procedere laddove queste documentazioni manchino. Posso farle questa domanda, signor prefetto? Tra le tante associazioni anti-racket e anti-usura in giro per l'Italia, e voi li avete nel ministero, selezionate, le avete messe sul sito, eccetera, eccetera, ci sarebbero anche dei personaggi abbastanza equivoci. Ecco, ma questo a voi, al vostro commissariato, quindi non sto andando sul singolo caso, risulta, cioè è possibile che qualcuno provi anche ad infiltrarsi per o azioni di disturbo o per avere somme indebitamente invece non dovute? Ecco, è un fenomeno che secondo lei sul quale bisogna tenere accesi i riflettori, oppure si tratta di eccezioni? Ma guardi, è un fenomeno sul quale ovviamente noi abbiamo la massima attenzione. Vorrei precisare che le associazioni intanto svolgono l'attività che diciamo nel loro statuto, certo, nei loro fini, in quanto sono iscritti in un registro che si tiene presso ogni prefettura, e questa iscrizione evidentemente avviene una volta che il prefetto della provincia in cui l'associazione opera constati la capacità, la professionalità, certo, il tipo di apporto che l'associazione abbia espresso, e poi faccia tutta una serie di verifiche che sono stabilite in questo regolamento. Ecco, comunque per chi avesse dei dubbi, la prefettura è sempre lì a disposizione, no? Assolutamente sì. Ecco. Al di là di questo, poi, proprio per individuare casi come quelli che lei adesso stava ipotizzando, c'è una attenzione che si concretizza in un invito, c'è stato un invito ai prefetti a operare queste verifiche assiduamente, in modo tale che si scongiuri il pericolo che realisticamente è possibile di infiltrazioni nelle associazioni. D'altra parte, per esperienza vissuta, ricordo che in una vicenda di estorsione a Palermo, nel periodo in cui svolgevo le funzioni di prefetto, un grosso imprenditore che era stato taglieggiato da una intercettazione risultava, un'intercettazione in cui egli era telefonico, in cui egli era in contatto con un esponente malavitoso, questi sconsigliava allo stesso imprenditore estorto di iscriversi a un'associazione anti-racket, giusto appunto per togliere ogni dubbio sulla sua posizione, nello stesso tempo però fare un'opera di disturbo tra virgolette. Lei certo, possa essere. Assolutamente. Quindi, il pericolo ovviamente dell'infiltrazione c'è, la mafia, le mafie ovviamente utilizzano questa strategia che è finalizzata attraverso l'infiltrazione a condizionare i vari livelli o associazionistici o di governo, intendo dire di gestione meglio di determinati settori. L'invito è quello di rivolgersi e di denunciare all'autorità giudiziaria questa cosa. Assolutamente, assolutamente. Si tratta assolutamente di iniziative che vanno stroncate. Bene. Allora questo strumento è necessario che sia tutelato. Benissimo. Io ringrazio il prefetto Marino per il suo ruolo e per l'impegno che ci mette. Grazie davvero. Ci sentiremo sicuramente con lui prossimamente. Buona giornata, prefetto. Grazie. E ringrazio in regia Fabio Cantadori e Filippo Aureggi, nel studio Laura Faggin e Roberto Galullo. Vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.